Quindi, comunque sia, oggi vi assicuro che ha il pedigree giusto il nostro ospite per parlarvi di Torino, di tutto quello che ruota intorno a quella nordica città, ridente e allegra e spensierata, e soprattutto della sua scena musicale. In realtà parleremo più che altro della scena musicale a noi più affine, diciamocelo, perché insomma la trasmissione si fa a noi, quindi si sceglie noi, e in particolare vi parleremo della scena musicale torinese degli anni 80-90, giusto? All'incirca, sì. Sì, più o meno ci fermiamo alla fine degli anni 90, direi anche alla metà degli anni 90. Salvo poi, in realtà, fare delle piccole digressioni sul futuro e sugli anni a venire. Ma poi lo vedremo, probabilmente faremo un'altra puntata, perché in realtà di torinesità si potrebbe parlare molto di più di quanto parliamo oggi, e quindi faremo magari un'altra puntata per parlarvi dei gruppi un po' più recenti che ci dispiaceva comunque lasciare indietro, anche se tu non hai rimpianti, anzi per te sono pure troppi quelli che abbiamo messo, giusto? Sì, è una puntata lunghissima. Sì, perché è sprezzante Torino. Comunque parli un sacco e mi aiuti, grazie. Sì. Vabbè, e quindi niente, avete sentito che subito dopo la sigla in realtà abbiamo attaccato senza dirvi niente un pezzone che era Che notte di Fred Buscaglione, che non è degli anni 80-90. Esatto, bravo, quindi sei anche attento. Del 1959, bensì. Me lo ricordo bene, sì. Sì, infatti, tu eri già grandicello, insomma. C'era, allora, io, poi c'era Macario, Fred, poi c'era Gipo Farassino, sì, poi c'era... Insomma, eravamo lì tutti alla Piola a bere Bicerin e... Ecco. Me lo ricordo, cavolo se me lo ricordo. Ci picchia. Che serate. Che notte. Che notte, sì. Bella notte, infatti. E quindi Buscaglione è stato il primo nostro pezzo per farvi entrare già nel clima, perché vabbè, Buscaglione era un torinese, direi, con tutti i crismi. E in realtà... Passiamo subito al clou, agli anni 80-90, a quello che volevamo farvi sentire, e passiamo subito ai Blue Vomit, che vi raccontano cosa pensano loro di questa città, giusto? Vuoi dire qualcosa sui Blue Vomit oppure lo facciamo partire e poi ci delizi dopo con i tuoi commenti? Blue Vomit, lì c'è scritto 1983, meno male. Io non, in realtà non li ho mai visti Blue Vomit, perché sono... Ero fuori Torino quando sono... No, non è vero. È che non è vero che sono antico come Buscaglione. Sono più vecchio, ma non così vetusto da aver visto da vivi Blue Vomit. Gli unici ricordi che ho è che per me rimangono sempre quel gruppo che ho scoperto da un manifestino che è rimasto attaccato, credo, tipo 10 anni. Si era scolorito, era un concerto che avevano fatto in zona Vanchiglia, e era rimasto attaccato sotto... la copertura del mercato di via Madama Cristina, me lo ricordo ancora, ci avevo fatto anche la foto, e suonavano, tra i gruppi che si leggeva così c'erano anche i Blue Vomit, i Collettivo e altri gruppi di quell'era lì che io non ho vissuto generazionalmente, perché appartengo più alla seconda ondata che faremo ascoltare dopo, e quindi i Blue Vomit li ho scoperti postumi. Poi dai Blue Vomit nascono i Nerorgasmo. Questo è quanto so dire sui Blue Vomit. Basta? Bravo, sei più, direi. Anche se non c'eri, comunque. Una soccavata, via. Bravo, sì, Tesla, hai fatto bene. Quindi, Blue Vomit vive in una città morta, e vi avvertiamo che chiaramente, essendo quasi tutti i pezzi che vi facciamo sentire appartenenti all'orgoglioso punk DIY e affini, sono tutti abbastanza sciupacchiati come audio, ma in realtà a noi ci piacciono, ma così. Ma è una ricerca stilistica. E infatti, lo facevano, cioè, loro anche in realtà un po' apposta. L'avevano registrato benissimo, è una produzione tipo in 40 tracce, come disco music anni 70, alto budget, poi l'hanno sporcata apposta. Facendo tutti dei rumori sopra. Certo, così. Certo, per avvicinarsi di più al paradigma punk degli anni 80. Eh sì, c'era tutta una ricerca, certo. Infatti poi ripresa da MTV, ma insomma senza successo. Va bene. E quindi vivo in una città morta dei Blue Vomit. boccettine un po' alla Clash, eh? Solo quelle. Vabbè, ce le vedevo solo io, vabbè, non importa. E, sì, questo Blue Vomit che già insomma, dipingono un quadro della città di Torino del 1983, abbastanza, penso, puntuale e preciso, immagino. Ma perché Torino sostanzialmente negli anni 80, per inquadrarlo da un punto di vista sociopolitico, se no io che ci sto a fare qua. Certo, se sei l'esperto, giusto? Esatto. Era, diciamo, era la città che si andava spogliando delle sue vestigia industriali, e perché dagli anni, più o meno da fine degli anni 70, Torino inizia una grossa ristrutturazione che vede sostanzialmente la chiusura di quasi tutti gli stabilimenti industriali, delle attività industriali. Il prossimo pezzo che ascoltiamo in realtà si intitola Sud di Torino, perché a Sud di Torino c'era il Lingotto, la Fiat, un complesso non da poco, cioè grossotto, come occupava un quartiere praticamente, più attorno, come dice il pezzo, poi lo sentirete, c'era nato un quartiere abitativo, ma essenzialmente perché lì c'era una fabbrica, non perché era un bel luogo dove vivere. Io in realtà non sono però di sud di Torino, ma della West Coast, cioè sono più a nord-ovest come collocazione, dove comunque c'erano dei grossissimi stabilimenti che io ricordo attivi soltanto quando ero piccolo, cioè quando i miei, che lavoravano entrambi alla Michelin di via Livorno, mi portavano all'asilo della Michelin, che esiste ancora. L'asilo, quell'asilo lì non è più l'asilo della Michelin, una volta lo era. Cos'è adesso? Sempre un asilo, però non è più della Michelin, perché non c'è più la Michelin. Cioè, okay. Io i ricordi che ho, diciamo, di quell'epoca lì sono solo di quando ero piccolo, che mi portavano al dopolavoro della Michelin a giocare a basket e queste cose qua, che era sul lungo d'ora, c'era anche il mini golf. Oh, che bei ricordi, sì sì. E poi mi ricordo lì davanti nei muri gialli, perché era tutto un muro giallo praticamente, i muri gialli alti con fabbriche dentro, mi ricordo c'era una scritta che mi ha segnato nella mia formazione e crescita intellettuale e spirituale. C'era scritto: Johnny Rotten non andò in paradiso per divenire santo, ma per uccidere Dio. E io mi chiedevo: ma chi cazzo è sto Johnny Rotten che è andato a uccidere che ne Dio? Sa così tante. Esatto. Ma non era morto in realtà, non lo so perché c'era quella scritta, però comunque a me mi aveva colpito. E quindi inizia quest'opera di ristrutturazione nel quartiere che ricordo io, sono nato nel quartiere Aurora, e lì attorno, per quando io avevo 15 anni, sostanzialmente c'erano solo fabbriche vuote. Vuote, enormi. Era molto, molto strano, perché comunque c'era un intero quartiere di fabbriche dove però non ci stava dentro più nessuno, quindi era tutta una grossissima area dismessa, che è anche un po' difficile da descrivere. Se la vedete adesso non è più così, perché hanno tirato giù tutto, è tutto molto, è molto diverso, ma lì una volta, dove c'era il parco d'ora, queste cose qua, c'erano solo fabbriche. Qualcosa è rimasto, no? Tipo l'officina Savigliano, che era una fabbrica, in realtà faceva armi anche, vicino a un'acciaieria che era la Texid. Poi c'era un altro stabilimento della Fiat, poi dietro c'era la Michelin, c'era tutto sto groviglio di troiai, e tipo l'officina Savigliano l'hanno lasciata la struttura, quindi uno si può fare un'idea. Sul lungo corso Mortara, dove adesso c'è quel lungo centro commerciale, in realtà quella era la Texid, mi sembra, quindi era anche lì ci si può fare un'idea dei volumi, però non si capisce la desolazione splendida che c'era in tutte quelle fabbriche vuote, tutta quella nebbia. Era un bellissimo marchingegno tremendo, disinnescato, molto melanconico. Poi c'era una fantastica sopraelevata che proprio ti chiudeva l'orizzonte, che tu se passavi la sopraelevata vedevi le montagne a distanza, ma se stavi al di qua, io stavo al di qua, vedevi solo la sopraelevata. Che comunque era la cosa più importante. Io quando hanno tolto la sopraelevata in realtà ci sono rimasto male. Certo. E infatti mi sono trasferito da Torino, sono venuto a vivere a Firenze, ho detto: non c'è neanche più la sopraelevata, io che è cazzo tutto inutile. Rimango a fare qua. Giusto. E questo era per descrivere più o meno lo scenario. Poi era interessante questa cosa della Viva una città morta, perché effettivamente Torino, quando era attiva come fabbrica, e anche poi per tutto il periodo anche un po' della successiva ristrutturazione, quindi la cassa integrazione, licenziamenti, queste robe qua, in realtà conservava ancora gli orari dei turni della fabbrica. Quindi sostanzialmente tu uscivi la sera e veramente non c'era un cazzo nulla, e tutto si svolgeva su quegli orari lì. Negli anni 80 non c'era ancora la movida torinese del 2000, e di conseguenza si capisce perché vivo in una città morta. Non c'erano neanche ancora le occupazioni, nel senso che il periodo in cui stiamo parlando nascono le prime occupazioni, però nasce il Paso, così, però erano, non c'era ancora la seconda ondata, che è poi quella che attraverso io, in cui effettivamente la vita culturale della città era fortemente segnata dalla produzione culturale degli squat, delle occupazioni, dei centri sociali, eccetera. Negli anni Ottanta c'era una grossa voglia di, però effettivamente i mezzi non c'era ancora una realtà strutturata. No, ci arriva un SMS che ci dice: quindi Gino è diventato tossico di sport per colpa del dopolavoro Michelin. Cioè, effettivamente. Allora, dopolavoro Michelin, effettivamente facevano una molteplicità di attività che andavano dalle bocce al tennis. Le bocce, quali bocce? Specifica, perché poi sembra. Le bocce, le, ah, le bocce, il gioco alla francese. Ok. Poi c'era il tennis, c'erano svariati campi da tennis anche in Terra Rossa, e mio babbo, io me lo ricordo perché essendo una fabbrica illuminata di modello francese, la Michelin, tu potevi avere i dirigenti che giocavano a tennis con gli operai, cioè mio babbo sfidava che bello. Sui campi la Terra Rossa. E poi c'era il basket, infatti ho giocato anche a basket, ho giocato a tennis, a mini golf, c'era la scherma. Che sport di un certo livello tutti, eh? E sì, poi c'era anche una biblioteca, e c'era anche un bel teatro dove io mi ricordo una volta il mio babbo ha fatto anche una recita. Ma quindi in realtà il fordismo era una figata, diciamocelo. Ah, come si stava bene allora, guarda. Era una bomba proprio. Sì. Molto colto sei venuto su. Va bene, no, ma basta, tagliamo un attimo per farvi sentire il pezzo di cui parlavamo. I Contrazione è a sud di Torino, da uno split, lo split che hanno fatto nel 1984 con i Franti, e lo riconoscerete perché insomma un pezzo. A sud di Torino c'è Mirafiori comunque, dove era sito il Lingotto. Sì, per riallacciarsi, sì, insomma. Lo riconoscerete, penso, perché insomma è un pezzo piuttosto famoso. A voi. Fiat Lingotto, un quartiere costruito intorno alla fabbrica. Chiusa la fabbrica, rimane un quartiere dormitorio, un ghetto costruito per la loro sopravvivenza, non per la tua. Questi erano appunto in Contrazione con A Sud di Torino, come si intuiva perché lo diceva parecchie volte insomma nel testo, e a questo punto ci riallacciamo allo split di qui sopra e vi facciamo sentire un pezzo dei Franti, ma non tratto dallo split ma da Luna Nera, un disco del 1983. Non lo so, lo facciamo sentire così oppure hai dei ricordi che riguardano i Franti o cose di questo tipo. I Franti sono un gruppo colto, non come questi gruppi punk qua che vi stiamo facendo sentire. Sono un gruppo che affonda nella progressive, nel jazz, cioè gente che sapeva suonare davvero. E in realtà vengono, penso, un'esperienza politica un pochino più tarda forse rispetto alle altre cose che abbiamo detto, cioè più precedente, nel senso che molti di loro avevano vissuto l'esperienza dei circoli del proletariato, che poi sono diventati, diciamo, l'onda lunga ha generato poi i centri sociali e niente, nel senso, vengono e poi si contaminano con tutto il giro del punk, eccetera. Però a differenza, ad esempio, che ne so, di un gruppo, penso tipo i Blue Vomit, che nascono sul punk, i Franti vengono da un altro tipo di esperienze musicali e anche da un retaggio politico più netto, più riconoscibile. No, basta. E tra l'altro è una di quelle cose che secondo me non si è trovata in tante altre città italiane in quel periodo, la capacità di contaminare i generi e, non lo so, di ascoltare con la stessa intensità un gruppo come i Blue Vomit o i Contrazione e uno come i Franti, che hanno dei suoni che adesso ci sembrano piuttosto diversi e che però evidentemente condividevano un'affinità, uno spirito palese per chi li ascoltava in quel momento. Cioè adesso una cosa del genere magari ad averne, insomma. Io non lo so, nel 1983 c'avevo 8 anni, che cazzo ne so. Io ce n'avevo 2, però... Allora, stiamo parlando di cose che chi beh, uno fa per dire... Sì, uno fa delle ipotesi. Non lo so. Sì, si fa pur parler, sì. Chiaro, siamo alla radio, si fa pur parler. Vabbè, i Franti, abbiamo scelto Joy, vabbè l'ho scelto io perché è un pezzo che piace a me, va bene, però niente, sentitevi Joy dei Franti. Diventavano macchine da demoni. ce ne sarebbero da sentire tantissime dei pezzi dei Franti. In realtà ero in difficoltà sulla scelta, ma visto che anche a Fuoco alle Polveri ne hanno fatti sentire un bel po' nei giorni scorsi, ho detto vabbè, facciamone sentire uno che sicuramente non è passato ancora su Radio Wombat. I Franti, tra l'altro, va detto che quel che rimane dei Franti, ovvero il progetto Franti MM, suonerà a Firenze a Next Emerson, possiamo ormai dirlo come cosa ufficiale, venerdì 21 aprile di questo anno. Quindi preparate già i vostri motori, scrivetevelo sulle agende e non dimenticatelo, ma tanto ve lo ricorderò in maniera ossessiva. E vi dico già che ci sono anche i social Wombat, che sennò poi me lo dimentico, il sito wombat.noblogs.org, dove potete trovare il palinsesto aggiornato, cerchiamo di tenerlo il più aggiornato possibile, con gli orari delle dirette e tutto, e potete sulla pagina podcast guardare, ascoltarvi i nostri vari podcast delle trasmissioni e quant'altro, insomma trovate un po' tutto quello che riguarda questa nostra e vostra radio. E poi Twitter, la pagina Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la stupida pagina Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, ma ormai che ve ne fate dei Facebook, e la casella di posta, postawombat@insiberia.net, dove potete scriverci, e anzi vi invitiamo sempre a farlo, che ci fa piacere. Basta, i miei doveri li ho espletati, e quindi adesso possiamo proseguire con un altro classico, direi, del Torino di quegli anni, metà degli anni 80, che sono Negazione. Sui Negazione c'ho dei ricordi più precisi, perché li ho visti in concerto. Li ho visti, è stato anche uno dei primi concerti che ho visto, purtroppo era una fase di Negazione un po' complessa. Nel senso che io mi ricordo che tipo c'era un fan club dei Negazione che era andata a una trasmissione, mi sembra su come si chiama, DJ Television. Su Italia 1. DJ Television, quella bruttissima. Esatto, c'era la sfida tra Thai Fan Club e c'era anche il fan club dei Negazione. Ma pensa che bello. Io l'ho visti in un posto, non mi ricordo neanche dove, però mi ricordo ero piccolo abbastanza, perché mi ero messo apposta il chiodo, quello d'ordinanza, con la toppina dei Sex Pistols, ma ho accompagnato mio babbo. Ah, dei Sex Pistols, venuto... perché avevi capito chi era Johnny Rotten nel frattempo. Forse avevo iniziato a capire, sì. Uh-huh. E mi ricordo che è venuto a prenderci il babbo invece di un mio amico, che il mio babbo ci aveva portato e l'altro c'era venuto a prendere. Era un concerto di quando c'era stato in Negazione, che suonavano con forse sul Sound System, o forse solo con Paparichi. Sì, però in realtà era una commissione interessante, ma che all'epoca non era stata apprezzata. No, veramente, perché c'era tutto questo pubblico di metallari che aveva scoperto in Negazione e che era molto snob nei confronti del Lupa Parichi. E quindi quando tutti volevano in Negazione, quando è iniziato Lupa Parichi, erano tutti... Ma che è sto fricchettone? Sì, esatto, che non è stata una bella cosa. Ora, io al tempo non avevo proprio compreso questa dicotomia, ma poi con l'andare degli anni ho detto, però... erano proprio stronzi, secondo me. Cattivi. Cioè, insomma, perché alla fine in Negazione si muovevano verso nuovi orizzonti musicali, anche cercavano di contaminare le scene, e però questa manovra non era stata compresa. Non lo dico per scherzo, cioè lo dico per davvero che non era stata compresa. E quindi io almeno quella volta lì li ho visti in Negazione. Negli anni prima me li sono persi praticamente sempre. E quindi io l'unico ricordo che ho di un concerto di Negazione era quello. Per me è stato comunque un bel concerto, era anche uno dei primi che vedevo, e quindi c'è un buon ricordo, ecco. E che proponiamo dei Negazione? Non me lo ricordo. No, Negazione, prima di dire il pezzo, in realtà vi volevo anche dire che è uscito un libricino edito dalla Shake, la moderna Shake, la versione 2.0 della Shake, che si intitola Negazione, il giorno del sole, con anche, non mi ricordo se uno o due CD audio addirittura, e comunque, non lo so, un bel libricino secondo me, a me era piaciuto. C'erano diverse interviste, un po' di tutti i rimasti di Negazione, e non mi ricordo se anche Neffa addirittura diceva la sua, forse Neffa no. Non mi ricordo, cioè ha suonato la batteria di Negazione Neffa, viene la citato fine, più volte, però non no, probabilmente non dice la sua. Comunque in ogni caso ci sono diversi interventi ed è comunque uno spunto bello secondo me, è un buon racconto della Torino di quegli anni, dall'idea. Tra l'altro ci sono anche tutti i testi spiegati uno per uno, insomma è meticoloso come libro, almeno io me lo ricordo così, è del 2012, insomma di un po' di anni fa, quindi potrei avere dei ricordi falsati. No, io non mi ricordo niente. Bene, a posto. E il pezzo che vi facciamo sentire, abbiamo scelto il classicone, uno dei tanti classiconi, ed è quello che dà il titolo al primo album, Lo spirito continua, e l'ultima traccia omonima, Lo spirito continua, Negazione. Questi erano in Negazione, erano abbastanza riconoscibili e strafamosi. E ora cambiamo un po' il registro perché ci stoppiamo un attimo con il punk hardcore del metà degli anni Ottanta. Rimaniamo negli anni Ottanta, metà sempre degli anni Ottanta, ma passiamo a un gruppo che fuori da Torino non so quanto sia conosciuto in realtà. Io ad esempio non l'avevo mai sentito dire, ma io ora non è che proprio sia super colta da questo punto di vista, però secondo me non ha circolato tantissimo fuori da Torino, e sono i Truzzi Brothers. Sì, in realtà si potrebbero già associare anche al pezzo dopo, facciamo un unicum. Sì, facciamoli tutti e due, Truzzi Brothers, Brothers e dopo i Mirafiori Kids. Sì. Allora, Truzzi Brother, Truzzo è una parola che mi ha fatto notare prima non si capisce fuori da Torino, almeno forse lei almeno non so, la capisce, la conduttrice non capisce. No, capisco è perché è una parola assimilabile a zarro, a zallo. Tamarro, zallo, sì, una cosa del genere che de lì, de te, va a, diciamo, a illustrare, a indicare il giovane... Tamaro di periferia, quello torinese, diciamo, potrebbe essere come te lo figuri, come uno che dice, non lo so, minchia o ogni due parole, minchia di o fa, minchia o sì, minchia coglione. Di o fa, coglione, così. Cioè, ma questo sono tutti i torinesi, sono così. No, no, in effetti è vero. Cioè, penso che tutte le persone che ho conosciuto siano assimilabili a questo. Quindi hai conosciuto solo Truzzi, stai dicendo questa cosa? Nelle periferie. Il nome, diciamo, Truzzi Brothers, insomma, era un po' appunto andare a identificarsi con un giovane di periferia. E, i Mirafiori Kids pure andavano sempre a... Cioè era tutta una serie di gruppi che si allontanano dalle sonorità punk hardcore, lo facciamo questo inciso. E prima abbiamo fatto ascoltare soltanto i Franti, che comunque erano assimilabili a quel giro, però suonavano tutt'altra roba e molto meglio. Poi c'è stato un gruppo ponte, se vogliamo, abbiamo fatto Blue Vomit, Franti, in mezzo ci abbiamo messo i Panico, che può essere un gruppo ponte. No, non abbiamo ponte. Messo i Panico, abbiamo messo i Contrazione, scusate, che però praticamente sono beh, i Panico. Vabbè. Dopo mettiamo anche i Panico, comunque certo. Diciamo abbiamo messo un gruppo che potrebbe essere ponte un po' tra queste due attitudini. Ora deviamo da un'altra parte, c'entra comunque sempre, e le sonorità sono un po' diverse perché è più un rock alla Skiantos, forse un po' combat rock. Sì, un po' più impegnato perché con gli stacchetti sono... reggae, così comunque sempre schierato, diciamo, sempre politicamente mirato. Però appunto abbandoniamo un po' queste sonorità più punk hardcore per andare a sentire qualcosa di più... in realtà non è Truzzo, perché i Truzzi non ascoltavano assolutamente i Truzzi Brother, manco per scherzo proprio. Però è interessante per relazionare ciò che accadeva nelle periferie torinesi negli anni Ottanta. Eh sì, tra l'altro i Truzzi Brothers, il pezzo che vi facciamo sentire si chiama Ti ho visto in piazza ed è probabilmente il più famoso loro, credo, direi. Una hit. Sì, è la loro hit ed è stata rifatta da diversi gruppi, tra cui guardavo ora e Frontiera, che non lo sapevo assolutamente, Frontiera, il gruppo successivo ai Kina, che non sapevo... Ma più che altro... Ma più che altro gli Arsenico, che ne hanno fatto una cover secondo me molto molto bella, e tra l'altro con un video altrettanto bello, che ci siamo rivisti ieri perché io non me lo ricordavo, ma quando l'ho rivisto ho detto ah sì, era quello. E Arsenico, gruppo invece parecchi anni dopo, perché direi inizio 2000, la prima decina del 2000. Diciamo gli Arsenico avremmo potuto infilarli anche dopo, quando parliamo dei gruppi della mia generazione, perché iniziano a suonare lì. Eh sì, però abbiamo detto questa volta non ve li facevamo sentire, sennò sforavamo troppo, e quindi ve li riproporremo in un'altra puntata che parla della Torino invece di qualche anno dopo, che tra l'altro secondo me gli Arsenico meritano due parole in più e non un buchetto così in mezzo agli altri 20 gruppi, quindi insomma ve li faremo sentire con calma. Sì, perché loro... Perché se allora sono stati importanti. Cioè, tipo ad esempio i Bellicosi, li possiamo parare così in un buco che infilato c'entra? Dietro altri due, e invece gli Arsenico perché sono amici tuoi, capito? Non mi permetterei mai, però cioè, anzi i Bellicosi in realtà perché li infilo nelle altre puntate a merda, a caso. Gli Arsenico no, e quindi che devo fare? Comunque ascoltiamoci Ti ho visto in piazza nella versione originale non cover dei Truzzi Brother, e poi a seguire in rapida successione i Mirafiori Kids con Torneremo sulle Langhe, sulla Langa, scusate, sì, le Langhe sono singolare. La Langa sono delle zone collinari. Eh sì, dopo ci devi raccontare delle zone collinari e anche di Dante di Nanni. Ti interrogo su Dante di Nanni. Va bene. Preparati, hai 5 minuti più o meno. Comunque, ora Truzzi Brothers.

apprezzano diversi e deboli, odiando schiacciano l'umanità. Da tutti i compagni che ancora sognano un mondo nuovo, nuovi ideali. Io dico pronti attenti, e che i fascisti hanno già perso una volta qua. Torneremo sulla langa a combattere, perché i fascisti sono già qua. Torneremo sulla langa a proteggere la nostra vita e la libertà. Torneremo sulla langa a combattere, perché i fascisti sono già qua. Torneremo sulla langa a proteggere la nostra vita e la libertà. Castellinani sulla langa, Che Guevara sulla langa, Gracia Pertini sulla langa, Tosca Bacuni sulla langa, Checchè Zapata sulla langa, e i sandinisti sulla langa, e ancora Cuba sulla langa, e Palestina sulla langa. Con questo penso di aver dato il massimo dell'impegno di sinistra che Slick Chick potete sentire nell'arco di un mese, perché così, cioè, è un po'... C'è anche questo levare reggae. Sì, anche quello penso che ho dato, insomma, per questo mese. È febbraio, è il primo, poi se ne riparla a marzo. E, ora ci devi parlare della langa, di cosa sono le langhe e di Dante Di Nanni. Sì, che non c'entra niente. Comunque. No, però loro comunque parlavano dei partigiani. Perché Dante Di Nanni era un partigiano torinese, però faceva parte dei GAP. E sì, era in città, vabbè. Era vabbè. In città, a seguito di un'azione fatta, mi sembra, addirittura dalle mie parti, cioè vicino all'arsenale militare sulla Dora, e quindi più vicino a zona Balloon attuale e Porta Palazzo, ai limiti con il quartiere Aurora. Viene ferito ed è costretto a rifugiarsi, a fuggire, e si rifugia in una casa in zona San Paolo e lì sostanzialmente viene assediato dai fascisti, e che lui tiene impegnato sostanzialmente da solo per coprire, diciamo, gli altri partecipanti all'azione. E muore resistendo per ore e ore, alla fine tirandosi giù dal balcone, quando finisce tutte le munizioni, le bombe a mano, eccetera, e per non cadere in mano fascista si immola in questa azione, ecco. E è un personaggio ben noto a Torino, c'è una via che gli è dedicata in zona San Paolo. Spesso i cortei del 25 aprile in zona San Paolo si fermano davanti alla dove c'è la targa commemorativa. C'è anche la palestra del Gabrio a Torino, si chiama Palestra Dante Di Nanni, e questo è Dante Di Nanni, che è un po' l'equivalente del come anche valore simbolico di quello che è per Firenze Bruno Fanciullacci, più o meno. Sì. Anche se le vicende erano un po' diverse, ma neanche poi tanto, insomma. Va bene, e le langhe invece sono un paesaggio... Una formazione collinare. Dove c'era la resistenza, quindi come il nostro Monte Morello, giusto? Se no il pezzo dei Miraferi Kids non ha senso, torneremo sulla langa. Sono più le zone di Montalcinello, via. Le zone ok, là. Va bene. È più come distanza da Torino, è più Montalcinello. Va bene, va bene. D'accordo. No, giusto per dare dei riferimenti. No, e così si inquadra tutto si capisce, poi alla fine tutto il mondo è paese. Sì, anche perché io sono anni che ho questa teoria che Firenze e Torino hanno una connessione particolare, e quindi velatamente ve la cerco di dimostrare in maniera completamente insensata, a caso. Però vabbè. Ora si cambia stile di nuovo. Cambiamo stile, ritorniamo sul... Ma punk hardcore, lo definiamo così, ma boh, non lo so. Punk hardcore contaminato. Contaminato, sicuramente crossover. Un altro classico, perché arriviamo ai Panico. Dei Panico vi facciamo sentire La Mia Testa, perché a mio insindacabile giudizio è un bel pezzo che a me piace. Tratto da Scimmie del 1990, un'autoproduzione... Del Paso, non mi ricordo più in realtà. Sì. E, Vabbè, Panico l'hai visti? L'hai mai visti Panico? I Panico li ho visti tante volte, sì. Era bello sì, perché sul palco del puzzle facevano sempre anche le performance, era un forte, infatti però. Questa cosa me la raccontavi, sì. Io non ho mai avuto il piacere. Poi cantavano con un microfono effettato in maniera strana, era bello, bello, bello, sì. Ballavano anche, c'era una tipa che ballava, no? Beh, mi ricordo questo concerto dove c'era, sì, dove c'erano delle persone, diciamo, dentro una specie di lenzuolo, che si contorcevano e facevano dei balli sul palco, ho questo ricordo, però i miei ricordi sono sempre un po' onirici, vaghi, no? Non è che è preciso, però mi ricordo questa cosa qua, spero di non sbagliare, ma chissà, secondo me. Chissà. Poi proiettavano sempre, facevano sempre queste cose con le proiezioni, era onirico. Era coinvolgente anche da un punto di vista visivo sensoriale. Ah, wow, anche un po' olfattivo. Non me la ricordo questa cosa dell'olfatto. Sarà al paso anche olfattivo, secondo me. Forse sì, sudore. A causa della piccolezza della stanza. Sì, e non la nona reazione, sì. Vabbè, sì. E basta, vi facciamo sentire i Panico. La mia testa si sente veramente un po' male, però immaginatevelo, ecco, con tutti e sei i sensi. Yeah. Questi erano i Panico. È un peccato proprio che non siano stati. Cioè che non sia trovabile niente con una qualità un tantino migliore, però. Palle sei. Ho capito, ma è un peccatissimo. Cioè, sono troppo. Questo pezzo è bellissimo. Ascoltati la musica barocca. Io ascolto anche la musica barocca, certo. Infatti era una frecciatina. Cioè, sei punk e così va bene. Cioè, zozzo e lurido. Funziona così. Però che palle. Vabbè, ma me ne farà una ragione. Amante dell'alta fedeltà. Me ne farò una ragione. E adesso, dopo i Panico, c'è questa cosa che tu definisci la testa di ponte tra la vecchia generazione e la nuova, giusto? Forse sì, forse potremmo usarla come in questo senso. C'è questo gruppo di Church of Violence, che rappresentavano un po' più grandicelli della generazione, quella più pischella, che vi facciamo ascoltare, cioè Pischella di allora, che sì, vi facciamo infatti ascoltare adesso, però era un gruppo che in realtà era attivo esattamente quando lo erano anche tutti gli altri che vi faremo ascoltare in seguito. Intanto Torino, nel frattempo che noi abbiamo fatto ascoltare tutta questa musica, è cambiata. E in questi 20 minuti, sì. In questi 20 minuti, ho avuto questo processo dal nulla degli anni 80, dove effettivamente non c'era molto poco, c'era molta voglia di fare, ma poche strutture. In realtà c'è un momento in cui la grossa disponibilità di spazi vuoti e praticamente le nulle politiche istituzionali, sì, relative. Si tramutano in un grosso protagonismo delle occupazioni. Aguzzano l'ingegno, diciamo. Sì, in questo periodo infatti nascono una serie di occupazioni. Io la prima a cui ho un po' partecipato, più come, diciamo, più in qualche modo che andavo a pulire, facevo delle cose, era un'occupazione di Pischelli, un po' patrocinata, mi ricordo ai tempi, un mischione tra studenti, pezzi di rifondazione, cose così, che era l'Isabella, che era un asilo. Sempre quando asili, è stato sgomberato l'Isabella, sono nate altre due occupazioni. Parte hanno dato vita al Gabrio, con altra gente, anche con universitari, così. Un altro piccolo gruppetto, in realtà, ha fatto un'occupazioncina molto bella di quartiere, Madonna di Campagna, che si chiamava Delta House. Nel frattempo il Giro Squatter dava vita al Prinz Eugen. Che esiste, è un'altra ancora occupazione. In realtà il Prinz Eugen, anche se vuoto, non si sa. No, ci sono delle anime, degli spettri che si muovono, però non fa più niente da anni. I muri ci sono, intanto si vedono le finestre aperte, però non c'è più attività. Ai tempi invece era tutte queste piccole occupazioni di quartiere. C'era anche il Kinoz, che era nata nella zona vicino al Paso, mi ricordo c'era l'Onda. Insomma, c'erano tutta una serie di piccole occupazioni di quel periodo che in realtà rendevano tutto molto, molto, molto vitale. E i Church of Violence, io penso di averli visti praticamente in ognuna di queste occupazioni. Dei Church of Violence ricordo in particolare, vabbè, uno, il cantante Gigio, che poi adesso canta pure negli Artur, insomma, c'ha avuto una lunga storia nel punk hardcore. Perché ha una bella voce, va detto, e poi il chitarrista Bella Rosa, che era una specie di Frank Zappa del Minchia O, cioè era un personaggio con chiare velleità un po' metallare, però estremamente capace, che rendeva il sound dei Church of Violence abbastanza bello, sofisticato, ecco. Molto di ricerca. sì, di ricerca, senz'altro. Però ecco, volevamo usarlo come gruppo ponte perché erano un po' più, diciamo, anagraficamente più. Scusate, muore. È la tisi, mi consumo. È la tisi dovuta alle fabbriche di Torino. Quello certamente, ma poi anche io, in quanto personaggio ottocentesco, soffro di malattie ottocentesche, ormai giusto, debellate da secoli. Vaiolo, sì. Ma non per me. No. E quindi potremmo usarlo come gruppo ponte per introdurre la seconda parte della trasmissione, in cui ci sono tutti i gruppi appunto di questa seconda ondata del punk hardcore, che io conosco meglio perché anagraficamente mi colloco in questi anni. E intanto vi ho anche raccontato i cambiamenti che Torino ha dal devasto post ristrutturazione, eccetera, a questa rinascita dei posti occupati. Poi in realtà noi qua ci fermiamo, perché tutto il resto sarà diciamo in una prossima puntata, dove si affronterà dal 2000 in avanti, no? Sì, dove essenzialmente arrivano le Olimpiadi invernali di Torino. Beh, e tante cose accadono in quegli anni, non è che no, quello, però diciamo no, parleremo diciamo di questa ulteriore step. Sì, sì. E chiaramente non metteremo tutti i gruppi, perché sennò avremmo dovuto fare una puntata di 7 ore, però mettiamo, speriamo, una buona rappresentativa. Un po'. Iniziamo con Church of Violence, di cui vi abbiamo parlato finora. Abbiamo scelto Rido Sempre, che è un gran pezzone, dall'album Imputtanate 6 speciale del 1992, sempre autoproduzione del Paso, giusto anche per ribadire chi in quel periodo dava vita a tutto questo, tutto questo fervore. Cioè, evidentemente tutti questi dischi di fatto venivano autoprodotti. Il Paso, no, come in quanto occupazione più vecchia, più mitica, perché ci hanno suonato tutti, eccetera, nella, diciamo, in quell'ambiente un po' particolare degli squat, eccetera, quando te arrivavi comunque a suonare al Paso era un po', questo lo dicono in tanti, era un po' il palco dove volevi arrivare. Sì, tra l'altro, cioè, ora, al di là del palco, ma uno nella, anche se uno questa cosa detta così può sembrare idiota, però nella sua idiozia era anche vera, cioè nel senso, effettivamente la gente tendeva a dire: se sono arrivato a suonare al Paso, allora vuol dire che sono bravo, o in qualche modo perché il palco del Paso è veramente alto, quindi è insomma, veramente se ci alto, devi sì. Arrivarci a salire non è proprio banale. Ci devi essere allenato su palchi più bassi, infatti mi ricordo a Prince Eugen il palco era a terra, anche alla del Taos il palco non c'era, capito? Quando arrivavi proprio a salire o sul palco trampoli, del Paso, oppure vuol dire avevi fatto gli squat, eri bello allenato, sì. Giusto. No, tra l'altro io mi ricordo anche la distro del Paso che io ho visto ovviamente in anni successivi, però che insomma siamo tutti debitori alla distro del Paso. Che cazzo, era una distro incredibile. Sì. Sì, sì. E anche da un punto di vista musicale, non soltanto di libri, insomma. Va bene. Church of Violence, Rido Sempre. Che ride, che faccia chi me lo dice, in un modo o nell'altro sorriso capito e come non è te lo dico. Hey, hey, what to lay, oh ah. Shubidubidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabidabid Mi nervosisco se guardo la TV, indifferente agli slogan che lo combatti pure tu. Mi nervosisco se guardo la TV, indifferente agli slogan che lo combatti pure tu. Let's go. Church of Violence per gli amici COV, passiamo ai bellicosi, di cui assolutamente non vogliamo dire poche cose, ma anzi vogliamo scendere nel dettaglio, perché poi vi facciamo sentire un pezzo loro, Gli anni migliori, che secondo me è veramente uno dei pezzi più fighi della torinesità tutta. Allora, dei bellicosi, però dobbiamo fare della polemica subito. No. No? Non è polemica. Mm. Io in realtà volevo raccontare... Io ho visto i bellicosi una volta. Mm. Me li ricordo questo... Partiamo da lontano. Ce l'ho visti tantissime volte i bellicosi. Li ho visti in particolare una volta che partecipavano a una roba che era tipo il rock contest qua di Firenze, quello che poi si suona alla Flog. Loro facevano la finale, penso abbiano anche vinto di sta roba. Comunque se lo meritavano, perché avevano veramente spaccato. E mi sembra il Parco Ruffini, che è un parco molto... cioè c'è una specie di palazzetto dello sport. Io mi ricordo questo concerto dove c'erano i bellicosi, e se non mi ricordo Sabino con la sua folta chioma di capelli rossi, che all'epoca ce l'aveva tipo quella... come si chiama quello che suona le tastiere in Saranno Famosi? Ora mi chiedi te una lo giuro, cosa era un così. Po' troppo... Io ma ho avuto proprio la stessa percezione, ho detto lui è un genio esattamente come il tipo di Saranno Famosi. Veramente. Non mi ricordo. E comunque a questo concerto, io me lo ricordo, mi sembra che suonavano anche i Persiana Jones e le Tapparelle Maledette. Ah. E me lo ricordo come un concerto dove poi c'era tanta gente e c'eravamo noi, questo gruppo di punk, amici che erano andati a vederli e così, che facevano, potevano improvvisare questi stage diving, ma non si poteva salire sul palco, allora partivano da in mezzo al pubblico. Cioè alcuni venivano issati e c'era talmente tanta gente che te poi rotolavi fino a che non arrivavi proprio alle transenne, poi butta fuori, ti pigliavano e ti rimettevano lì e ti riportavano via. Tu intanto avevi calpestato un sacco di gente che sì, ti odiava, perché comunque era appunto tipo rock contest, quindi c'era una variegata, diciamo, popolazione di pubblico. Non erano tutti punk, c'erano tutti punk, ma c'erano anche tanta altra gente che era venuta a vedere gli amici che suonavano e si trovavano noi sulle loro teste. E mi ricordo questa cosa qua, mi sembra, poi magari sbaglio, non è vero, Sabino ci smentirà, dice io non ho mai suonato a quella cosa lì e io ho visto un altro concerto. Ed era un altro gruppo. È un altro gruppo che con comunque... il tastierista di Saranno Famosi. Ma no, io mi ricordo questa cosa, ma potrei anche sbagliare, perché ogni tanto i miei ricordi si confondono. Poi li ho rivisti tante volte, i bellicosi, al Paso, tutti concerti bellissimi comunque. Veramente, non per scherzo. No, io li ho visti soltanto in una reunion ai Murazzi, ma ora, cioè quanto era? Qualche anno fa, insomma. Era andata solo te, io non ero venuto. Ah, vedi. E non conta tanto, insomma, perché insomma era una reunion, però era stato molto molto bello lo stesso, insomma. Mi ricordo i Murazzi. Hai assaporato lo spirito di quegli anni. Sì, non si respirava veramente. I Murazzi, poi come tutto, sempre... l'assenza di ossigeno, il sì, sudore, sì, e poi come sempre umano. I Murazzi, io capito sempre dietro alla colonna, ma e sei fortunata, cioè chi niente. Ci capita proprio contro, viene schiacciato, capito? Lascia il sangue su quelle colonne dei Murazzi. Esatto, tra l'altro di quella serata esiste un DVD, quindi chi è particolarmente feticista e vuole vedere la gente sfasciata sulle colonne può vederselo, insomma. Ma io guarda, posso dirti che credo che su quella colonna lì ricordo forse proprio a un concerto dei bellicosi che io penso di non aver saltato, perché stavo limonando con una fidanzatina dell'epoca, proprio appoggiato a una di quelle colonne, a quella stessa colonna. Hai visto? Pensa che ricordi romantici. Potessero parlare quelle colonne. Ah, quante ne racconterebbero, guarda. Sì. Ma vabbè, a parte ora le colonne dei Murazzi, veniamo ai nostri giorni, a proposito di reunion. Che fine hanno fatto i Bellicosi? Abbiamo appreso tramite fonti certe, che poi abbiamo verificato. Di un certo peso. Sì, esatto, da Arcorella 2000. Sì, che è la nostra fonte principale, insomma. Certo, ma poi abbiamo verificato la notizia cercando su YouTube, perché solo ciò che finisce sui social in qualche forma corrisponde al vero e alla realtà. Giusto. E abbiamo trovato i video. E i Bellicosi hanno dato una svolta alla loro carriera e da adesso abbiamo capito che suonano anche a compleanni, feste di laurea, battesimi, comunioni. E quindi li potete anche invitare. Li potete invitare, se sì. C'hanno un cachet. C'hanno un cachet anche perché il povero Sabino sta a Parigi, insomma, non è che... Non è che devi raccontare tutti i cazzi suoi. No, sì, tanto voglio dire, cioè, ormai se lo chiami bisogna invitare poi a suonare al matrimonio, te lo dovrà dire che insomma un po' comunque di soldi ci vogliono. Comunque abbiamo appreso che suonano alle feste di compleanno e quindi io immagino... che visto questa svolta suoneranno anche a battesimi, comunioni, cioè se eventi speciali, anniversari, non so, se fate i vostri 40 anni di matrimonio e volete festeggiare con i Bellicosi, contattateli e loro vengono. Sì, comunque sì, cioè appunto, cioè, in realtà io sono molto invidiosa, come fra l'altro il pubblico di Arcorella 2000 si lamentava un sacco di non essere stati invitati alla festa di compleanno di Macno dove hanno suonato i Bellicosi, ma però insomma chissà perché di eventi, insomma, compleanni, cose del genere, ce ne sono tanti, magari, cioè, chissà, il tempo ci dirà. Anche beati voi che c'eravate, se c'eravate, noi non c'eravamo, sì. E questo noi siamo arsi dall'invidia. È il nostro livore, sì, infatti, sì, che parla. Livore, rancore palese. Senile. È palese, sì. È palese. E ora che ascoltiamo? Li ascoltiamo così come erano quando hanno registrato Torino Rock and Roll Stars con gli anni migliori, appunto, e ogni riferimento, insomma, alla Torino di quel tempo non è casuale. Ma no, è esistenziale, perché la gioventù sono sempre gli anni migliori, cioè loro erano già melanconici in quanto star. Avevano già quella melanconia, avevano già capito come si vende. Un po' la cioè, David tu Bowie. Devi evocare un'epoca che tu non hai vissuto, anche se anagraficamente non ha senso, però lo devi fare lo stesso, perché quella melanconia è quella che ti pone in uno stato tale per cui sei più emotivamente disposto ad accogliere quel tipo di proposta musicale. Giusto, poi non so se mi sono spiegato. No, perfettamente, perfettamente. Cioè, è come dire ascoltare le bionde trecce, l'acqua azzurra e poi, capito? Cioè, diventi magari... un archetipo praticamente. Esatto, ti rifai a degli archetipi ben precisi che poi sulla tua psiche, capito, anche a un livello neuronale, no? Sì. Ma anche proprio a livello di sinapsi. Cioè ti scattano delle cose, si produce la serotonina, tutte cose che ti fanno stare bene e quindi c'hai questa sensazione di sto bene ma sono anche un po' melanconico, non lo so, si crea un'atmosfera lirica, non te la so spiegare meglio di così perché non è qualcosa che si può razionalizzare, o la ce l'hai o non ce l'hai. Mi sembra giusto. E loro ce l'avevano, per Dio. Ah, se ce l'avevano. Dio fa. Ma ce l'hanno tuttora, tra l'altro nella puntata successiva della Torino post, parleremo anche dei Titor, quindi insomma, e degli altri numerosi progetti che li hanno attraversati, quindi vabbè. Ma questi sono ma non gli anni. Solo loro, tutti i gruppi che vi stiamo facendo sentire da qui in avanti possedevano questo... Sì, Il geist. Quest'essenza, l'essenza. L'essenza. Va bene, gli anni migliori, Bellicosi. We'll be right back. ero incerta in realtà se mettere Il mondo all'ingiù, che era un altro dei miei pezzi preferiti, però alla fine ha vinto questo e quindi... Beh, Il mondo all'ingiù la prossima puntata. Sì, perché è proprio bello. Da ponte, ponte. Dobbiamo fare ponte. Giusto, sempre ponte. Questi erano i Bellicosi e salutiamo Sabino se ci ascolta o ci ascolterà. E ora proseguiamo con i frammenti. I frammenti, sì. I frammenti ci vanno. Ascoltiamo un pezzo dalla demo, avvicinati, sì. Allontanati, sì. Sì, sentiamo un pezzo dalla demo. La demo Città Industriale, il titolo della demo. Esattamente, sempre. Esattamente. Demo cassettina. Perché la demo, ce l'ha scritto sotto, la banda della Pinta, perché i frammenti facevano parte di questa fantomatica banda della Pinta, che erano una serie di gruppi, in realtà di amici, che si ritrovavano in vari posti. Uno di questi era sotto il portico, diciamo, davanti al Teatro Regio, che una volta era aperto, e c'erano da un lato i Breaker, dall'altro gli Skater, e poi tutto un giro anche vicino al punk hardcore, anche questa banda della Pinta, caratterizzata appunto dalla presenza di una pinta nelle loro riunioni, e c'erano diversi gruppi, c'erano anche i Rotten Brain, c'erano altri gruppi che non facciamo ascoltare qua ora, però facevano parte di quella scena. E un altro posto dove si ritrovavano, che era un'altra zona di Torino, erano i Giardini del Fante, che erano davanti al Politecnico, che in realtà sono diciamo collocati in una zona relativamente bene di Torino, che però nel pezzo proprio davanti al Politecnico in realtà ai tempi si situava la notte, cioè una zona abbastanza malfamata, perché si situava tutta un giro di diciamo la prostituzione maschile e trans era lì, prima era in via Cavalli che era vicino al Pala Giustizia attuale. Poi era migrata lì quando avevano ripulito via Cavalli e poi sarà anche spostata in via Art, ma ora vi faccio tutto questo giro. No, infatti non vogliamo sapere come mai sei tu così informato su tutti questi dettagli, però... Vabbè. No, era per collocare la stranezza, che se no non si capisce, del perché tu alle tue spalle, no? C'hai questa zona che è ultra bene di Torino e c'erano i Giardini del Fante, il Politecnico, eppure lì era una zona malfamata. Noi diciamo, ma come mai se sono tutti ricchi? Perché proprio per quello. Quello senz'altro, questo senz'altro, però era per spiegare perché anche quella zona faceva parte, era un pezzettino di strana forse periferia, non lo so, cioè, perché c'era anche lì, era partita perché c'era il Giardino del Fante, fu anche uno dei primi giardini a ospitare una mini per skateare. Una mini, perché non c'erano strutture, ora ce ne sono tantissime a Torino. All'inizio non c'erano e quindi c'era tutta questa popolazione strana che partiva dai vari punti della città per andare a skateare sulla mini perché era gratis. Quindi vabbè, siccome certo. Il giro skater in realtà era abbastanza legato ad alcuni di questi gruppi, cioè nel senso questa frequentazione del Regio, cioè il giro skater quegli anni lì era abbastanza legato in qualche modo al giro anche punk hardcore dei gruppi che vi facciamo sentire. Infatti dopo ci sono gli Arturo, con un pezzo che vi faremo ascoltare, dove esattamente una frase testimonia. Ma non andiamo troppo avanti, non sveliamo troppo. Rimaniamo sui frammenti e facciamo sentire subito il pezzo? Via, facciamolo. Dai. Frammenti, avvicinati e allontanati, della demo tape Torino Area Industriale. Cerco te, tu cerchi me, io cerco te, tu cerchi me, avvicinati, allontanati, non respiro, non c'è spazio. Un appuntamento buio, l'evento già programmato, un'occasione instabile che non riesco a prevedere. Due strade che si incrociano, dal nulla arriva il sole. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Lo cerco te, tu cerchi me, non sarà mai troppo tardi. Analisi delle probabilità, certezza matematica. Unico problema, riconoscersi. Unico problema, riconoscersi. Papara, papara, papara, papara, papara, papara. piacciono un sacco queste cose che fanno i frammenti, pa, sempre. È così, mi piace. E Arturo, abbiamo detto, l'hai anticipato, ora ci devi parlare della frase che citavi prima. Non te la ricordi più, sono dai, skater, faccio il cazzo che mi pare. Non lo so. È una cosa del genere, alla fine del pezzo La Vespa, se voi lo ascoltate con attenzione, mi sembra che dica una cosa di questo genere. E gli Arturo li ho visti diverse volte, facevano un po', gravitavano attorno alla Delta, alla Delta House, e il pezzo è un anthem di quegli anni, e quindi ascoltiamocelo subito perché dobbiamo andare un poco più veloci, che abbiamo parlato 8 ore. Tipo. Sì, sì, altro che Mozz comunque, sentitevi gli Arturo. Sì, infatti, altro che Mozz Piazza Statuto. Esatto. Senti che bomba questa. Di mattino esco con la mia Vespa, della gente me ne sbatto il cazzo, ma col cento sotto fino come un pazzo, un carabiniere mi alza la paletta, passo e gli sputo nella sua alfetta, quando sto con lei non penso più a niente, mi refumo, bruciano la mia mente, e gioco la mia e faccio la sua. Con la mia Vespa sono te. Questi che avete sentito adesso erano i Nuvola Blu, subito a seguire dopo i frammenti. Ci siamo spostati fuori Torino. Eh sì, perché infatti... Sono di Ivrea. Sì, abbiamo deciso arbitrariamente che torinesità poteva includere comunque anche dei luoghi che non fossero... Degli excursus, non più di 40 minuti di macchina però. Beh no, infatti, non esageriamo. Infatti tipo i China non ci sono. No, sono fuori. Val d'Aosta. Ci vuole più di 40 minuti. Eh sì. Si è preso quello, poi si è preso Pinerolo sforando un po'. Beh, però Pinerolo perché andava se vai un po' a bomba ci arrivi in 40 minuti. Come forse, si fa? E Nuvola Blu invece erano di Ivrea? Ivrea, sì. Ivrea. E Ivrea, sì, è comunque entro i 40 minuti? 40 minuti, sì. Beh, allora sì, si può sì, fare. Sì, con la tangenziale libera ce la fai, sì. Ok. Sì. E questo era Il Silenzio, dall'album Vivere la Luna. E... Sì, è un album un po'... intimista, come chiamarlo, il suono era un po' intimista, strizzava un po' all'occhio all'hardcore, quello meno brutale dell'Ebullition, secondo me, erano un po' quei gruppi, quello stile di hardcore lì. Beh, era molto strano per il tempo comunque, cioè non era proprio banale questo tipo di suoni. No, avevano colto bene l'atmosfera. Sì, tra l'altro penso che Nuvola Blu, anche lì, fuori da Torino, non è che sono molto conosciuti, però è un peccato perché effettivamente erano una bella anomalia nella scena di quegli anni, in generale, di italiana di quegli anni, penso. Ora torniamo a Torino. Torniamo a Torino, zona sì. Pozzo Strada. Non ci distraiamo. Up to date, sebbene io non conosco parte dei componenti, non sapevo assolutamente l'esistenza di questo gruppo, non essendo una torinese doc. Hanno fatto solo quella demo. Solo quella demo. E infatti sì, anche qui si parla di una cassettina. Up to date, gruppo... che, aneddoti, cose, gossip... Sull'Up-to-Date, l'Up-to-Date, il cantante degli Up-to-Date è in realtà il batterista degli Young Gang. Sì. Esatto. E qua lo ascoltiamo nella diciamo nel ruolo di cantante. Gli Up-to-Date erano un gruppo sostanzialmente affondava nelle radici diciamo del punk hardcore torinese in pieno. E questo pezzo qua è molto buffo perché mischia un po' l'attitudine punk con un'attitudine un po' più fricchettona, nel senso si intitola Urla Sputi Fiorellini. E c'è già qualcosa anche di street punk però un po', eh? Di street punk? Sì, che cosa? Nella sonorità secondo me, no, non nel testo. Dici? Ma la voce è veloce, cioè il pezzo tirato, voce... ogni tanto... Vabbè, sarà... Vabbè. A me non mi sembra, però... Vabbè, ce lo vedo io. Vai, ascoltiamoci sto pezzo, vediamo se la gente sente lo street punk, ora io non so dove no, possa essere. No, ma io, lo sai, sento tante cose. Cioè. Non è che ho un ascolto fantasioso, non è che... No, ormai l'hai detto, non è che te lo rimangi. Adesso lo ascoltiamo, sentiamo questo pezzo che ha delle chiare influenze street punk e poi voi mi dite dove sono. Va bene, Urla, Sputi e Fiorellini. Vabbè, sì, ci sono scuole di pensiero diverse sul tupa tupa, cioè secondo me c'era un tupa tupa che comunque faceva da ponte, come diresti te, a una scuola OI successiva, ma però mi rendo conto che non tutti interpretano il tupa tupa alla stessa maniera, insomma. Vabbè. Allora, adesso parliamo di un gruppo in realtà distante da Torino, ma non troppo. Alcune percentuali di questo gruppo erano torinesi, in realtà per tre quarti si situava a Pinerolo, una ridente cittadina nei pressi del Pinerolese. Del Pinerolese, sì, è una provincia a sé stante, sta lassù in Val Pellice, laddove vi sono i valdesi. E ti salutiamo i valdesi. A voglia, ciao. E, appunto, in realtà Pinerolo è una città famosa essenzialmente per niente, e, però c'ha un sacco di caserme, nel senso che è una città dove gli hanno collocato tutti i possibili corpi militari, c'hanno anche i carabinieri a cavallo proprio. E quindi niente, non è facile la vita a Pinerolo, però è stata una città che ha prodotto delle cose interessanti nella scena punk di quegli anni, anche gli anni precedenti. Ora ci ascoltiamo due gruppi, uno che fu alla ribalta nella scena punk rock perché seppe lanciare un trend. Sì, non lo so se lanciò un trend, comunque era il tempo in cui di fatto diventarono in cui scoprivano famosissimi. La cioè adesso voi pensate alla trash ed è scontato che uno ascolta la musica trash, ma allora non lo era. C'è tutta la riscoperta dello schifo della cinematografia italiana, di Alvaro Vitali, tutto quello schifo lì, no? E diciamo, questa cosa è stata una scoperta, per quanto possa sembrare incredibile. E i Fichissimi, si tratta del gruppo di cui andiamo a parlare, appunto seppero cogliere quel momento storico preciso in cui se tu facevi quella cosa azzeccavi e ti inserivi perfettamente nel geist dell'epoca. Quindi tu dici che non sono i Fichissimi che hanno inventato la scoperta del trash, ma viceversa, si sono inseriti. Loro hanno saputo cogliere l'attimo, il momento fugace. Si sono inseriti in quel momento proprio preciso dove se tu facevi sentire a Battantuono era il momento giusto. Capito? Se facevi la cover di Pappalardo era il momento giusto. Caterina Caselli, tutte giusto. Queste cose qua. Era quello il momento giusto. In effetti poi i Fichissimi sono diventati super famosi, tant'è che addirittura arrivarono ad avere seguaci e gruppi cover a loro volta. E per questo si sciolsero in un ultimo concerto al Paso, mi sembra di ricordare, in cui diedero questo volantino in cui spiegavano che si scioglievano. Perché era troppo. No, mi sembra di ricordare, non ce l'ho volantino, poi sono stato scemo, non l'ho tenuto, in realtà mi sarebbe piaciuto. Forse anche un mio ricordo che hanno dato un volantino, magari non è vero, ma mi sembra proprio di sì, che ci fu l'ultimo concerto al Paso con distribuzione del volantino in cui spiegavano perché se andavano a il progetto andava a terminare, ecco. Che era perché una volta arrivati ad avere gruppi cover, delle cover, sì, era un po' troppo. Forse, sì, mi sembra fosse il ragionamento fosse una cosa di questo tipo, una roba dignitosa comunque. Sì, infatti sono massimo un gruppazzo. Rispetto, direi. Sì, massimo rispetto. Giusto. E, vabbè. E ora che ci ascoltiamo, mi sono innamorato della tipa... di una casa occupata. Che esatto. È, insomma, un pezzo che non possiamo non far sentire ai microfoni di Wombat Radio. Non so se questo è il titolo, Radio. Se ormai il titolo è la tipa della casa occupata. Cioè, tutto allora, questo è il ritornello praticamente. Allora, i tag del pezzo qua dicono mi sono innamorato della tipa di una casa occupata, quindi... Io mi ricordo che il pezzo era la tipa della casa occupata, ma potrei sbagliare. Chissà, comunque chissà. A casa c'ho il 7 pollici. Ma potremmo provare come a sentire qualche gruppo, una cover band dei Fichissimi, come la vede. Comunque, un pezzo, anche questo si sente male, ma io ho imparato ad apprezzare la qualità scrausa di questi pezzi. E quindi ve lo ripropongo così com'è, gioitene. Non ho visto almeno uno, quando entrava bene per il cucino erano almeno le due. Gli ho visto che poi c'era una risposta troppo forte, il sole è un po' tutta sulle la schiena è una cosa, non è un corpo prodotto, ma c'è sempre il mercato, ma non è un corpo prodotto. Con la bomboletta in mano a prendere l'erotizzone per la doppia tornito, ma saranno gli altri solo alla manifestazione. Quando mangi chiamare con un uomo a chi fai vorrei che continuo nello più cazzati la bandiera e venga tra la mia. Non penso neanche più alla polizia, non sono innamorato di una tipa di una casa occupata soltanto di un peggiore e la schiena da guarda con un tipo soprattutto. Quando entrava bene nelle cucine erano almeno le due. Gli occhi si chiude poi granati, troppo troppo forte addosso, le ho potute sulle due. Questa notte ha guardato un po' che ha potuto vedere, e si passa tutto quello che ha dovuto. Mi lascia uno sguardo che succede non lo so, non riesco a parlare neanche un po'. Mi sono innamorato di una città, di una casa occupata, poi c'è per te il peggior. E la schiena da guarda non è più molto prodotto, erano romantici, fichissimi, che tenerezza. Sì, tutti noi eravamo innamorati di una tipa o di un tipo di una casa occupata. Con l'anfibio autoprodotto. Poi abbiamo occupato le case, però nessuno si innamorava di noi e abbiamo detto c'è qualcosa che non funziona. Che cosa triste. Noi non funzioniamo probabilmente. Sì, vabbè. Come dicono i belli cosi, c'è qualcosa che non funziona o sono io che non funziono? Va bene, lasciamo ai nostri ascoltatori la risposta a questo quesito atavico. E continuiamo sull'onda di Pinerolo per un altro gruppo pinerolese, ho imparato a dirlo senza incespicarmi. Questi anagraficamente precedenti ai Fighissimi. Vabbè, ma noi si mette ora, che ci frega. No, si mette punk. Ora, certo, i Fighissimi hanno attinto a piene mani alla, diciamo, alla scuola, alla nobile scuola lanciata dai Barboncini Punks. Sì. E ora andiamo a sentire un loro, di nuovo veramente un loro anthem. Padroncino. Loro hanno fatto riuscire una perché davvero i pezzi loro erano veramente introvabili. Ce l'avevi solo nella cassettina se conoscevi di persona qualcuno dei Barboncini Punks. Se no non ce l'avevi. Tipo ne avevamo fatte 6 copie. Cioè una cosa. Non lo so, io ce l'avevo perché che ne so. Perché te eri nei giri giusti, però noi altri poveracci, insomma, ci siamo giovati della reedizione che hanno fatto anni e anni dopo in un blasfemissimo CD, ecco. Certo. Con copertina rossa. E ascoltiamoci Barboncini Punks, Padroncino. Telefono, la mia testa scrivente, la mia canzone nuova, qui tutto fuma, anni di disegni, anni di lavoro, quando tutto fuma avete rovinato, ma io vi licenzio, qui tutto fuma. Qui tutto fuma, e questo era Padroncino dei Barboncini Punks, e con questo terminiamo la nostra parte più... più saltellante. Ecco, saltellante volevo dire, sì. E entriamo in una fase che dura poco, perché siamo fatta quasi una certa, in chiusura. Bisogna prepararvi a dormire. Sì, infatti, una fase un po' più rilassata, più tranquilla, comunque leggermente inquietante, perché comunque non vogliamo che facciate bei sogni. E, no, anzi, triste. Preparate una tisana e tanti Kleenex e preparatevi a piangere. Sì, cioccolatini anche, antidepressivi. Perché i prossimi due pezzi sono, allora, nell'ordine, Iperturbazione. Ma quelli di una volta. Bensì, infatti, Iperturbazione di una volta, perché alcuni, magari, i più ingenui di voi li conosceranno come Iperturbazione alla Festa dell'Unità o su MTV. Perché io l'ho vista alla Festa dell'Unità, è stato un momento molto brutto. L'hai vista anche su MTV? Ah, su video, c'è il video quello con Lucarelli, che non fa mi l'insegnante. Non mi c'è Lucarelli e quell'altra tipa anche che non mi ricordo come si chiama, è brava e simpatica. Non lo so, però era un brutto momento. Cioè, e fanno questo video con il cellulare, che c'è il ragazzino che ha il cellulare uguale a quello di Lucarelli. E lui glielo sequestra e poi scrive, però lui si stava scrivendo con la tipa, allora il ragazzino pensa mica mi ruba la fidanzata sto stronzo, e invece poi Lucarelli fa ma vedi che abbiamo il cellulare uguale, lui in realtà si stava scrivendo con l'insegnante, capito? E quindi poi escono tutti assieme con Lucarelli che lo beffa e gli fa paura, e invece la Muccino, no. Insomma, non lo so come io come trama. Cazzo gli è venuto sto video, cioè, non lo so, non è lo stato so. Comunque un periodo brutto, ma non lo so se è brutto, è pop, è molto pop, però è pop male, non lo so. Sì. Cioè poi il pezzo è pure orecchiabile, io non lo so. Il non... pop è orecchiabile, per forza che è orecchiabile. Sì, no, ma questo... però noi ce li vogliamo ricordare come erano. Depressi, come una volta. Depressi, con dei sani valori torinesi di disgusto e fastidio. No, disgusto, ma perché un po' di disgusto così? Comunque sì, insomma. Un po' di malessere esistenziale, sì, un po' di mal di stomaco, ecco. Sì, ecco, sì, una cosa che comunque non ti lascia tranquillo. No. E quindi ce li sentiamo con La corda di vetro, che è uno dei pezzi piuttosto antichi di Perturbazione. A seguire, se non foste sufficientemente, cioè se vi foste rallegrati troppo, vi proponiamo Lalli, solista, dopo i Franti, la cantante dei Franti, Lalli, ha iniziato una sua... carriera è veramente un termine brutto, percorso, ecco, sì. Ecco, diciamo percorso solista, dove ha fatto diverse cose con diversi altri personaggi interessanti. Sì, tutte molto belle. E infatti, tutte molto di pregio e tutte molto belle, tra cui c'è un disco che è Tempo di Vento e da cui è tratto il pezzo che vi facciamo sentire, che è Brigata Partigiana Alphaville, che è triste. Triste, sì. Ma veramente bello. E quindi ve li facciamo sentire entrambi. Ma prima di farvi sentire questi due pezzi, vi leggo gli appuntamenti dell'agenda fiorentina delle zone liberate di questa settimana, che sono essenzialmente due e sono entrambi per sabato 4 febbraio, perché quando si dice la sfiga non è che si fanno le cose durante tutto l'arco della settimana, no, si fanno nello stesso giorno. Sabato 4 febbraio al K100, al cantiere K100, c'è una serata Irish, ci sono alle 20 c'è una cena irlandese, alle 21:30 la presentazione del libro Bomber Renegade e a seguire il concerto con Tullamore e Hooligans Mountain. Invece di altro tenore, non geograficamente un po' spostato, al Next Emerson, sempre sabato 4 febbraio, una serata Soul Time All Nighter con il gruppo New Color e a seguire Emerson Setters, DJ set essenzialmente Northern Soul e quant'altro, musica nera. raffinata. E raffinata. Una serata raffinata. Vestitevi a modino. Venitevi a modino, sì. Noi vi faremo trovare i tavolini con le candele. Allora, se andate al Cappacento vi potete vestire un po' di verde, un po' Irish, così. Sì. Se invece venite al Next Summers dovete un po' vestirvi a modino. Ecco, insomma, vedete voi. Basta, l'agenda è finita e quindi vi facciamo sentire i prossimi due pezzi, La corda di vetro di Perturbazione, a seguire Brigata Partigiana Alphaville di Lalli. Cari miei compagni burattini, lasciate che la corda resti tesa come mai. È stata tesa a far suonare l'agonia per muti spettatori ignari di una libertà impiccata. Dire di no sarebbe un gran sollievo e dopo un attimo il cadere ritaglierò tra i movimenti quei momenti e poi per finalmente dare un nome al filo che ci tiene legati, ancorati all'incontrario come si fa, vivere appesi alla speranza di riscattarci dall'oscurità. La colpa non è un dardo che colpisce al petto il traditore, simile a una cena in compagnia, è un piatto che svuotandosi ci sazia tutti in comunione. Comodo è guardare in alto e maledire la contraddizione. Grovigliati senza mai volere. Giacche erano rondini senza vento. Nella testa solo un richiamo, rumore sordo di mare, un uragano. Mi sorprendono gli occhi di tua madre, trapassano, se ne vanno, proprio mentre il ponte saltava in mille scintille. Oggi sono vecchio e stanco, e apri le vento e ho più paura. Sono venuto a chiederti, fammi questo piacere, ti prego questo piacere. Canta la mia canzone preferita, ti prego cantala. Cantala in questa mattina, appena appena impazzita. Cantala dove la mia mano potrebbe. Era Lalli con Brigata Partigiana Alphaville da Tempo di Vento, un CD di qualche anno fa, ma non troppi. E siamo arrivati all'ultimo pezzo, e con cui vi salutiamo e abbiamo finito questa lunga puntata sulla torinesità, e Gianduiotti, il Bicerin, tutte quelle cose là. E vi abbiamo già annunciato che faremo un'altra puntata sulla Torino di qualche anno dopo, e lo faremo, rispetteremo l'impegno, ma insomma tra qualche mese, dateci il tempo di prepararla. E quindi vi lasciamo ora con un altro pezzo di tutt'altro tenore, direi. Sì, no, si cambia completamente, abbiamo deciso che comunque per chiudere vogliamo ritornare al pop. Ai Truzzi, no, più che altro secondo me più al pop. E questo pezzo cattura una caratteristica di Torino importante. Torino è una città che ha due fiumi, ma non ha il mare. E sì. Quindi abbiamo deciso di chiudere con un pezzo che affonda nel non mare torinese. Io non direi neanche di chi è, lascerei... Ma tanto lo sanno tutti, perché comunque appunto. È un pezzo che è andato anche alla televisione, lo davano su Video Music, io me lo ricordo bene. E infatti non direi neanche il titolo, gli autori, perché tanto li conoscono. E quindi dopo questa puntata che affondava nel punk hardcore, nella meglio musica della meglio gioventù passata, presente e futura. E no. Futura, no, ma beh, neanche presente. Nella meglio gioventù passata torinese, vogliamo invece chiudere con qualcosa che in qualche modo rovina tutto, perché ci piace sparigliare le carte in tavola. Però affronta un dato geografico, affronta, perché tutti gli altri non ci sono arrivati, capito? Questi comunque non raggiungono, hanno trovato il nocciolo, le vette della Vespa degli Arturo. No, è vero. Pur rivendicando per sé l'appartenenza a uno stile che fa della Vespa al punto di forza, però hanno colto questa cosa molto importante di Torino e ci hanno fatto una canzone, che peraltro abbiamo capito anni dopo che pare che essa non sia una canzone originale, pare ci sia un pezzo spagnolo fatto anni prima che ha lo stesso sound, praticamente lo stesso testo, ma è spagnolo. Ma non mi ricordo. Però se il testo lo hanno rifatto. Aquí no estás. Cioè il ritornello era uguale, poi chiaramente questo era tarato, però io non avevo mai pensato che fosse una cover. Ancora oggi ho il dubbio, io lo butto anche qua tra i musicofili che senz'altro ci ascoltano. Ma Codesta è veramente una cover di un gruppo spagnolo? Di cui non ricordiamo il nome? Perché pare di sì, io mi ricordo è proprio arrivato un signore una volta, non mi ricordo chi, con un cellulare e mi ha fatto vedere che il pezzo che vi stiamo per far ascoltare è in realtà un pezzo di un gruppo spagnolo che dalle date sembra essere antecedente. Sì. Sembra essere antecedente, ma forse erano le date sbagliate? Ma chissà. Qui si aprono mille quesiti, insomma. Oggi vi abbiamo lasciato tanti quesiti, rifletteteci. Perché Torino è così una città misterica, misteriosa, esoterica. Sì, comunque non vi lascia certezze, ecco. Esatto. Vi lascia nel dubbio e nell'incertezza. Bene, e dopo tutto ciò pensateci, rifletteteci e noi ci sentiamo mercoledì prossimo sempre su Slick Chick, sempre intorno alle 21, sempre su Radio Wombat o Wombat Radio, come preferite. Ciao. Ciao. Non c'è il mare.